Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, si avvicinano i giorni nei quali ricorderemo il centenario dell'ingresso nella prima guerra mondiale del nostro paese, dell'Italia, e allora vi voglio segnalare un tema importante su questa ricorrenza, cioè quella che fu la partecipazione delle donne italiane, non certo alla grande guerra in sé per sé, ma all'Italia della grande guerra, quale ruolo svolsero, quale reazioni ebbero al grande cataclisma che si era abbattuto sul paese, soprattutto sulle loro famiglia. Questo è il tema che viene affrontato in un volume a più mani da varie autrici, di cui adesso vi leggo i nomi: Marta Boneschi, Paola Cioni, Elena Doni, Claudia Galimberti, Lia Levi, Maria Serena Palieri, Cristiana di San Marzano, Francesca Sancin, Mirella Serri, Federica Tagliaventi e Simona Tagliaventi. Il libro si intitola Donne nella Grande Guerra, è pubblicato dal Mulino, 242 pagine, 22 euro, ed è introdotto da Dacia Maraini. I vari capitoli del libro, affidati appunto alle varie autrici, ci offrono attraverso alcuni ritratti la condizione particolare in cui operarono in quegli anni, fra il 15 e il 18, le donne. E le storie assumono dunque un carattere esemplare della condizione delle reazioni femminili alla Grande Guerra. E questa reazione, che contribuirà a modificare la posizione stessa della donna nella società italiana, è introdotta e letta all'inizio del libro da Claudia Galimberti, che è una giornalista e saggista alla quale rivolgiamo adesso alcune domande. Buonasera a Claudia Galimberti. Buonasera, buonasera. Claudia Galimberti, il saggio che apre questo libro è a sua firma e si intitola Non si può pensare la guerra senza le donne. Come mai la figura delle donne in genere viene considerata un po' estranea a quella della guerra? Invece in questo libro si dimostra appunto il nesso importante che ci fu fra le donne e la Prima Guerra Mondiale. E infatti è proprio così, perché le donne, perché diciamo che non si può presentare una guerra senza le donne? Perché le donne hanno mandato avanti il paese in assenza degli uomini, cioè pensiamo che l'Europa si era veramente, questo non solo in Italia, naturalmente in tutta Europa, trasformato in un gineceo, perché tutti gli uomini tra i 18, i 20 anni e i 50 erano in guerra, quindi le donne hanno mandato avanti il paese. Le donne si sono scoperte capaci di mille mestieri, è cresciuta la loro autostima, sono state il perno intorno al quale è ruotata la produzione del paese, perché sono state nelle fabbriche, ma anche la produzione agricola, nei campi, hanno tenuto insieme la famiglia, hanno curato i soldati feriti. Questo mito dell'uomo che difende la patria e che protegge, poi diventava vulnerabile quando era ferito ed era curato dalle donne. Cioè le donne hanno assolto dei compiti, dai compiti familiari ai compiti della produzione, sono state pompiere, hanno guidato meccaniche, hanno guidato i treni, guidato i tram, insomma sono state protagoniste a tutto tondo, salvo poi essere dimenticate e condannate al solito oblio che condanna in genere le donne nella storia. Ci fu l'oblio, però ci fu anche una rivoluzione, perché comunque si affermò un'emancipazione femminile. Assolutamente, diciamo che proprio i primi passi dell'emancipazione, e con grande coraggio l'hanno vissuta proprio queste donne che sono uscite da casa e hanno cominciato a lavorare in massa, perché c'erano già le operaie, però sono aumentate le laureate, abbiamo avuto avvocati, medici, direttori di impresa, di banca. Queste donne hanno trovato il seme della loro autostima che man mano continuava a crescere. E questo è importantissimo, è importante, però vede anche qua cosa succede, che quando poi finita la guerra il Parlamento si riunisce e dice grazie, potete tornare ai vostri posti. Ora tornano gli uomini, tornano a lavorare, voi in fondo che cosa volete? Eppure avevano cominciato gli scioperi, avevano rivendicato il tutto e non c'è stata nessuna ricompensa. Non c'è stato neanche appunto il concedere il voto, che poi arriverà troppi anni più tardi, però è stato così. E le donne, non dimentichiamo persino i bordelli di guerra, cioè le donne anche lì hanno aiutato i soldati, gli uomini in tutto, eppure c'era questa mentalità per cui le donne sono ritornate e ritornate indietro. Nel suo capitolo un paragrafo si intitola «Cambia la visione della vita», quindi comunque un cambiamento, una trasformazione nell'atteggiamento, nella posizione delle donne, però ci fu. Ci fu sicuramente, perché per esempio pensiamo anche alla moda. La moda è una cosa di tutti i giorni, investe il quotidiano. La donna smette il busto, smette i vestiti lunghi e pratica, veste i pantaloni, deve andare a lavorare. Si rimette in una situazione in cui è lei a decidere, perché non ha più un uomo vicino da sedurre. Non ha più un uomo ai cui desideri dover sottostare anche nel modo di vestirsi, per esempio. Cambia anche l'idea della sessualità, perché tu hai vicino un uomo che magari dopo poche ore non c'è più ed è morto e deve partire, e non ci sono più i corredi ricamati, vitrine, uno dietro l'altro, che erano per i tempi di una sessualità tutta familiare molto pudica. Oggi la donna si ritrova più sicura, sa quello che vuole, cerca di prenderlo, cerca di essere se stessa senza più gli orpelli di una cultura, di una tradizione che l'hanno sempre relegata nell'idea di madre, sposa, figlia esemplare. Quello che le scuola, in mano purtroppo con una grande contraddizione storica, in mano al clero. Perché tutti gli istituti di istruzione femminile erano affidati proprio dal governo alle suore. L'esempio veniva dall'alto di questa nuova posizione della donna, veniva dal Quirinale, per l'appunto con Elena di Savoia, con la regina. Con la regina che ha interrotto tanti rituali che considerava inutili, ha interrotto rituali, ha ricevuto persone del popolo e, diciamolo pure, durante la guerra ha trasformato il Quirinale in un ospedale e non ha sentito nessuno. Lei si è trasferita a Villada, la reggia del Quirinale è diventato un ospedale. E lei è stata uno dei primi esempi proprio di una donna che dall'alto del suo ruolo e della sua funzione si è invece chinata sul popolo, con grande intelligenza, discrezione, ma anche con un grande senso di solidarietà. Alcune sue colleghe di questo libro sottolineano la differenza che ci fu nel comportamento di donne pacifiste all'inizio. Ci furono le pacifiste che diventarono interventiste, per esempio, di cui parla Lia Levi. E mentre la Tagliaventi parla dell'inviata di guerra, la Stefania Tour, che da interventista poi diventa femminista. E poi ci sono altre pacifiste che invece rimasero tale, come la Balabanoff. Balabanoff, straordinaria figura, che anche questa la storia l'ha dimenticata, eppure è stata una figura di primo piano sia in Italia sia in Europa. Lei si è battuta ed è stata delusa da questi uomini socialisti, compagni che appoggiano la guerra. Poi abbiamo Fanny Darry, la maestra pacifista. E abbiamo addirittura Rosa Genoni, la grande sarta che è arrivata alla gloria di produrre e aprire atelier a Parigi, a New York, ma che quando scoppia la guerra abbandona all'apice del successo la sua attività per predicare la pace contro questa guerra. Ecco, questi esempi sono indescrivibili, cioè c'è qualche cosa quasi di commovente nella tenacia, nella forza, nel coraggio di queste donne poi dimenticate. Una scoperta che fecero, lei ha fatto un cenno, furono gli scioperi. Gli scioperi cominciarono allora perché le donne lavoravano nelle industrie, lavoravano nelle fabbriche, lavoravano nei tessili, producevano addirittura le munizioni. E quindi cominciarono allora, prima nelle fabbriche del Piemonte e poi Como e poi nei campi, ed ottennero quelle famose 8 ore di lavoro che per noi sembrano normalissime, ma che furono ottenute proprio dalle donne, perché le donne poi dopo il lavoro avevano la casa, avevano i bambini, avevano gli anziani rimasti a casa. Facevano le file interminabili per avere magari un quarto di latte che doveva bastare per una settimana o un pugno di fagioli, avevano degli stipendi da fame, eppure loro continuavano in questo e a un certo punto si sono, come dire, un po' ribellate e hanno iniziato quella scioperi che poi si erano ripresi dopo. dopo il fascismo praticamente. Dal vostro libro, che idea vi siete fatte sulla partecipazione emotiva delle donne? Credevano all'impegno bellico dell'Italia, credevano a quella che era la missione rappresentata dal potere politico per giustificare la guerra? Direi di no, cioè all'inizio tutte le donne, e non può non essere così, erano contro la guerra perché andavano a morire i loro uomini, che fossero figli, fratelli, padri, mariti, erano la loro famiglia, e questo è insito nello spirito delle donne. Ma man mano che la guerra andava avanti, durava, doveva essere una guerra più breve, durava 2, 3, 4 anni, allora man mano la donna è come se si fosse rimboccata le maniche e avesse deciso che a questo punto bisognava fare di tutto per vincerla, e ha cominciato quella sostegno, quell'incoraggiamento che poi ha portato in effetti alla vittoria finale. E prima, in mezzo, avevamo quasi l'idea della madre spartana, avevamo quelle donne che quasi fanatiche, che vedevano nella morte del proprio figlio o marito un eroe, che rifulgeva nello splendido scenario degli eroi, si vedevano queste croci, questi cimiteri di guerra dove la croce si mischiavano i simboli di religione e di patria. Ma man mano, come è successo a Stefania Tour, poi tolto dal fanatismo, la donna si è un po', come dire, rimboccata alle maniche e ha capito che qua bisognava vincere per chiudere la guerra. Bene, grazie a Claudia Galimberti, coautrice di Donne nella Grande Guerra. Buona serata. Buona serata, grazie a voi, arrivederci. Un'altra lettura particolare della Grande Guerra è quella di un noto giornalista di Repubblica, Paolo Rumiz, che si intitola Come cavalli che dormono in piede, pubblicato da Feltrinelli, 266 pagine, 18 euro. Qui cambia il punto di vista, non più le donne, ma la condizione e la situazione dei trentini e dei giuliani che combatterono, compreso il nonno dell'autore, per l'impero asburgico. L'autore va sulle orme di questi combattenti dimenticati che lo portano al centro dell'Europa e dell'impero asburgico, verso la Galizia, quello che è il territorio al confine tra la Polonia e l'Ucraina, e quindi ci porta in qualche modo anche in un'area che è sempre sotto l'attenzione di tutti, in particolare in questi ultimi mesi. La lettura di Rumiz è tutt'altro che nostalgica, ma vuole andare al centro di sentimenti e condizioni che spiegano l'Europa di oggi, come illustra in queste righe. Fin dall'inizio, il mio viaggio alla ricerca dei caduti era stato, senza che io me ne rendessi conto, un percorso alla ricerca della memoria che di essi l'Europa aveva conservato. Erano stati i morti a mettermi sulla strada dei vivi, a farmi fare con occhi nuovi un viaggio nell'oggi, nell'anima dei contemporanei. O magari, perché no, un viaggio nella loro assenza di memoria. Era quello il punto. Il centenario stava già profilandosi come una cacofonia di voci discordanti, e io avevo paura di dover ammettere che i miei appunti rubati sul treno erano stati risucchiati da un buco nero ben più largo della bisaccia di un tagliaborse, l'afasia di un intero continente. Quando tra il Monte Baldo e i Lessini, correndo lungo l'Adige, il treno per Verona superò il fronte italo-austriaco del 1518, in quel sovrapporsi di guerre e di secoli, il piano del viaggio si era già chiarito. Se volevo completare il mio racconto sulla Galizia, dovevo partire su un doppio binario e con un doppio taccuino per costruire due racconti paralleli. Dovevo riuscire a leggere l'Ucraina e contemporaneamente a rivivere i giorni irripetibili della Polonia. Mi sarei portato in treno un po' di diari dei nostri ragazzi sul fronte orientale e ne avrei miscelato la lettura col film del paesaggio al finestrino. Il lavoro di montaggio era complicato, ma ero sicuro di farcela, alla faccia dei ladri e dei passeggeri dei Frecciarossa. E a questo punto... Il confettino. Un romanzo per ragazzi sullo stesso periodo di Ave Gagliardi, pubblicato da Battello Vapore, si intitola Amici su due fronti, 218 pagine, 10 euro, con una nota storica di Luciano Tassa, introdotta da Paolo Colombo, che cura questa collana intitolata Grande Guerra. Il libro tra l'altro è accompagnato da molte note che permettono di collocare la vicenda dal punto di vista geografico, militare, politico, storico in una trama che si snoda in Tirolo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un fenomeno e di una tentazione molto antica, quella della censura, una tentazione che si manifesta ancora ai giorni nostri, viene praticata in molti paesi, viene invocata spesso ufficialmente per rimettere ordine nel flusso delle informazioni. Ne sappiamo qualche cosa proprio in queste settimane. Nel nostro paese la censura ha infierito per molti secoli, prima se la prendeva con i libri, poi a un certo punto ha scoperto il cinema, e proprio della censura ai film parla il libro che adesso vi propongo, di due autori, Roberto Curti e Alessio Di Rocco, che sono due esperti cinematografici, che hanno pubblicato il libro Visioni proibite, i film vietati dalla censura italiana, un libro in due tomi, il primo che riguarda il periodo del dopoguerra fino al 1968 e il secondo il periodo attuale dal 69 a oggi, pubblicato dall'Indau. 578 e 568 pagine, due volumi, 34 euro il primo, 38 euro il secondo. Come ricorda Carlo Lizzani nella prefazione, la censura ha dato vita a un fenomeno paradossale, soprattutto nel periodo appunto del dopoguerra, perché infierì e si abbatté su un cinema come quello italiano che stava rinascendo e che diede vita a dei grandissimi capolavori. Quindi proprio nel periodo della fioritura meravigliosa del cinema italiano dopo la guerra, che trascinò con sé il recupero, la ripresa, la rinascita della cultura italiana, il cinema svolse le sue occhiute funzioni sui film che venivano prodotti nel nostro paese. E qui in questi due tomi troviamo appunto l'elenco dei film sui quali la censura infierì, con le schede di tutti i film che furono respinti, per così dire, dalla commissione di revisione, con i giudizi che su queste pellicole, giudizi ricavati dai documenti originali dei lavori di quella commissione. Qui troviamo i film che non videro la luce, almeno nella versione originale che era stata presentata alla commissione. Si trattò di una fase veramente asfissiante. All'inizio, infatti, ci ricordano i due autori, la direzione generale riduce i produttori a uno stato di vassallaggio, determinati a negoziare, limare, smussare, tagliare, sforbiciare, pur di far passare il proprio film in censura, a pagare lo scotto della bocciatura totale, quindi dell'invisibilità, sono le produzioni nazionali meno appariscenti, ossia i cortometraggi. E la censura infatti poteva colpire tutti i prodotti che poi sarebbero andati sugli schermi anche per un non nulla, anche solo per lo stile della comunicazione. Addirittura venivano colpiti anche i cinegiornali, come l'edizione numero 1095 dell'Europeo del 1958, che venne trattato nel modo che illustrano queste righe. Cinegiornale d'attualità. Gli argomenti trattati. Il generale Napoli è nominato nuovo capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. L'inizio della campagna elettorale a Milano. Una dimostrazione di universitari contro gli esami di Stato. Rossano Brazzi riparte per l'America. Elsa Martinelli diventa mamma. Nascita del satellite americano Baby Luna. Mostra romana del pittore Bruno Sovesti. Echi del tentato suicidio di Belinda Lee. A leggerne il sommario riesce difficile capire cosa potesse esservi di così pericoloso per l'ordine pubblico nei 212 metri di L'Europeo numero 1095. Cosa avrebbe potuto turbare l'ordine pubblico? Scorrendo il testo che accompagna le notizie una per una, par di capire che a infastidire i signori della commissione sia stato il tono del commento, strafottente, mordace, cattivello anziché no, inconfondibile parto della penna di Gualtiero Jacopetti. Del generale Napoli, nuovo capo di Stato Maggiore, la voce off precisa che c'è voluto un preciso ordine ministeriale per strapparlo dal suo aeroplano e trascinarlo tra le scartoffie di un ufficio. A proposito dell'avvio di campagna elettorale, il commento si fa beffe dell'attività oratoria dell'esuberante onorevole Malagodi, segretario del Partito Liberale, il quale, per certi suoi lucidi attacchi al governo, per certe sue spietate accuse allo statalismo, ma soprattutto per la sua accanita lotta tra le file dell'iniziativa privata, ci ricorda qualcosa che i suoi predecessori ci avevano fatto dimenticare, e cioè che l'Italia di Pietro Micca, dei fratelli Bandiera, del Pascoli, di Marconi, di Verdi, del brigante Musolino, del panettone Motta e delle case chiuse, l'avevano fatta i liberali. Gli studenti romani che protestano contro gli esami di Stato, di contro, hanno saputo dimostrare alla cittadinanza un alto senso di responsabilità civile e soprattutto una profonda coscienza democratica. proprio negli anni nei quali inizia questo viaggio, e cioè all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, anche un grande artista dovette subire l'attenzione sospettosa del potere politico, ma questa volta non in Italia ma negli Stati Uniti, e Charlie Chaplin, che proprio nel 1947 venne accusato di anti-americanismo e sospettato di comunismo negli anni in cui esplodeva la caccia alle streghe a opera del senatore McCarthy. Questa ed altre vicende sono raccontate nella biografia di Chaplin, che è a lui intitolata, Charlie Chaplin, ne è autore Peter Aykroyd, che è un noto scrittore inglese appassionato di biografie. Il libro è pubblicato da ISBN Edizioni, 262 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Francesca Valente. La biografia è arricchita dal lesto letterario dell'autore, che ci fa conoscere della vita di Chaplin ogni aspetto, fin dai tristi anni giovanili a Londra, anni che lo segnarono, nonostante poi abbia cercato di ingentilire quei ricordi. E le righe che adesso vi propongo dimostrano proprio come quei primi anni abbiano segnato decisamente la produzione di Chaplin. Anni dopo, immaginò una scena nella quale una vecchia signora arranca su per una scala portando un secchio d'acqua. Al quarto o quinto pianerottolo una porta si apre di colpo e un uomo sferra un pugno in faccia alla donna. «Oh!» dice con orrore. «Credevo che foste mia madre!» «Voi avete una madre?» «Sì», risponde piagnucolando. «Ho una madre!» Chaplin non si era mai davvero fidato delle donne. Ha sempre avuto paura della perdita e dell'abbandono, delle offese e delle ingiustizie, cedendo a eccessi di gelosia alla minima provocazione. Con le sue amanti era sospettoso, intrattabile e collerico. E poi seguiamo la carriera prodigiosa degli amori, molto numerosi, il carattere spesso impossibile di questo grande attore e regista, che ha fatto però la storia del cinema. E infatti l'autore lo definisce al termine del libro come un grande visionario dei sobborghi londinesi, che per un certo numero di anni fu l'uomo più famoso della Terra. E delle sorti del cinema ci parla un libro recentissimo di un noto studioso italiano, Francesco Casetti, che si intitola La galassia Lumière, sette parole chiave per il cinema, che viene pubblicato da Bompiani, 454 pagine, 20 euro. Il cinema è destinato a morire? Sembrerebbe prefigurare questa fine il concentrarsi di alcuni fenomeni, per esempio il progressivo abbandono della pellicola fotografica e anche il progressivo abbandono, aggiunge l'autore, della sala buia. Il digitale, in particolare, ci spiega l'autore, farebbe perdere quel contatto diretto con la realtà che è uno degli aspetti costitutivi del cinema. E allora, l'abbondanza di immagini può far crescere l'indifferenza per l'immagine rappresentata dalla pellicola cinematografica? Secondo l'autore la risposta è no, anche guardando le tendenze in tutto il mondo, che vedono un aumento del numero delle sale cinematografiche. Secondo Casetti, cambiano i supporti, ma non cambia l'abitudine a consumare film. Certo, ci sono molte novità nel rapporto tra il consumatore e il film. C'è una più forte dialettica tra la persistenza e la trasformazione dei vecchi fenomeni, e proprio di questa dialettica parla il libro, esaminando sette fenomeni, sette processi in corso che vengono colti attraverso una parola chiave: rilocazione, cioè la tendenza del cinema ad adattarsi a sedi non deputate rispetto a quelle originali, le reliquie, icone, assemblage, espansione, ipertopia, cioè una parola che ha a che fare con lo spazio della visione, display, performance. Insomma, conclude il libro, il cinema persiste pur in un'epoca post cinematografico. Diventa diverso, conclude Casetti, per poter trovare meglio se stesso. Restiamo nel cinema, sia pure indirettamente, con un libro di Céline Minard. Questo libro di cui vi parlo adesso è un libro in qualche modo dissacratorio, che rimette nelle sue esatte proporzioni il mondo del West degli Stati Uniti, protagonista di un genere di film fortunatissimi. Il suo libro si intitola Per poco non ci lascio le penne, 246 pagine, 18 euro, è tradotto da 66nd ed è tradotto da Elena Sacchini. È una rivisitazione del West, dicevo, una rivisitazione comica, allo stesso tempo è drammatica, con molta umanità e scarsa epica. È un viaggio avventuroso che farà entrare in scena personaggi curiosi e imprevedibili, che restituiscono del West appunto un'immagine ben diversa da quella tradizionale. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Peter Bescapè, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.